Buonasera, vi saluto cordialmente, ringrazio anche della vostra partecipazione, saluto i nostri ospiti, la dottoressa Cazza e il professor Bordina che hanno così aderito all'invito, un invito che ci è stato suggerito ancora parecchio tempo fa dalla signora Kettmeier, la presidente della sezione FAI di Bolzano, che ringrazio a mia volta per questa collaborazione, e non eravamo riusciti subito a realizzare questo incontro. È stato un anno un po' particolare anche per la biblioteca e le sorprese non finiscono qui, perché ci trasferiremo, insomma abbiamo ancora parecchi obiettivi da raggiungere, ma in questo così, ritmo incalzante finalmente siamo riusciti ad avere con noi qui a Bolzano nuovamente il professor Mortilla, accompagnato appunto dalla dottoressa Calza, e siamo contenti perché c'è una grande attesa nei confronti di questa conferenza, di questa presentazione del libro, come vedete nelle immagini, parole e visioni della modernità. La modernità è un tema sempre appassionante, forse anche molto ignoto, a volte anche così vissuto con atteggiamenti molto diversi anche dalla collettività, incuriosisce ma allo stesso tempo lontana, e sicuramente mancano delle chiavi interpretative, dei suggerimenti, dei mezzi per comprendere, quindi anche apprezzarlo. Vi ringrazio, siamo molto curiosi e saremo attenti alla vostra relazione, e ringrazio, lasciatemi appunto fare ancora un particolare ringraziamento alla signora Kettmeier che ci ha dato questo input e ha collaborato insieme al FAI alla realizzazione di questa bella iniziativa. Grazie. Grazie. Grazie. Lasciateci dire che per noi è un onore. Siamo un po' inibiti per essere qua, veramente siamo contentissime, veramente siamo onorati. Quindi vogliamo ringraziare Valeria Trevisan, Fabio Ferrarese della biblioteca, poi vogliamo anche ringraziare assolutamente come organizzatore il FAI, la signora Nadia Bugliari, Presidente Forza Tarello, e la signora Simona Trimaia. Grazie mille per averci invitato, per averci portato qua. Quindi adesso, prima di iniziare una chiacchierata su questo libro, che così un po' incuriosisce, volevo darvi due informazioni sul nostro autore, Salvatore, che è qua vicino a me. Magari non tutti lo conoscono, non tutti hanno avuto l'opportunità di venire a Piacenza. Quindi, due parole veloci. Nasce nel 1982 a Piacenza, inizia lì la sua formazione classica, liceo classico, e poi prosegue all'Università Statale di Milano, facoltà di lettere, e qua questo è un ambiente molto importante, un momento molto importante della formazione di Salvatore, perché lì ha la possibilità di conoscere e lavorare con Giovanna Rosa, che è una membro della Società Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria, che sulle orme di Vittorio Spinazzola, sulle tesi di Vittorio Spinazzola, è un comitato scientifico particolarmente interessato sia alla produzione letteraria che al contesto sociale che produce la letteratura. Quindi capite bene che proprio già dagli inizi che Salvatore coltiva e studia questo ambito. E poi da lì, dall'università, inizia la sua attività, diciamo, ufficiale, professionale, quella di insegnante all'interno della scuola superiore italiana, insegnante in italiano, ma anche di storia dell'arte, perché ha abilitato anche l'insegnamento della storia dell'arte. Non è tutto qua, è una persona molto curiosa, Salvatore, è sempre molto interessato a tutte le manifestazioni artistiche contemporanee, dalla cinematografia, alla fotografia, alla letteratura inglese e francese, che si può permettere di leggere in lingua, visto che conosce entrambe le lingue. E quindi diciamo che da questo ambito tipo istituzionale, di formazione, di studi letterari, più la sua passione per l'arte, per le manifestazioni artistiche anche contemporanee, poi nasce un hobby molto importante, un hobby che l'ha portato sia Piacenza, che ha portato innanzitutto ad acquisire la patente da guida turistica ufficiale della Regione Emilia Romagna, E poi anche un hobby che ha portato ad essere chiamato da vari enti, da vari musei, come l'Accademia d'Arte Moderna di Ciò, da Alliance Française di Bologna, e per curare eventi, conferenze, sempre a tema trasversale arte e letteratura. Quindi questo, il suo destreggiarsi tra questi due ambiti è sempre stato ben accolto, e anzi bisogna dire che a Piacenza abbiamo... Salvatore si è fatto un gruppo di persone che lo seguono sempre con interesse e con affetto. Per quanto riguarda gli iscritti, a parte alcuni articoli di genere letterario, che così sono temi un pochino più di attualità, che sono stati pubblicati, è importante citare il suo primo libro, che è in realtà una rivisitazione della tesi, La Malarazza, una rivisitazione della sua tesi che era sui Viceré, romanzo tardo ottocentesco di De Roberto. E poi abbiamo questo libro, che è L'ultima fatica, Parole in segno della modernità. Un libro, come vedete, piccolino, un libro agevole. Da semplice lettore quale io sono, vi dico, è un libro che, nonostante sia un saggio di critica letteraria, quindi un'analisi, non è certo un romanzo, non è certo una fiction, si legge molto molto bene, molto facilmente, ha un linguaggio che, per quanto non sia mai banale, mai scontato, non è certo un linguaggio pomposo, un po' noioso della critica letteraria. Tra l'altro questo libro si articola in 5 capitoli principali, a parte il primo, che è un po' di ordine metodologico, perché comunque un po' di metodologia bisogna sempre metterla, gli altri sono capitoli che affrontano temi della modernità, topos della modernità, che per noi contemporanei possono ancora dire qualcosa, anzi sono sicura che dicono qualcosa, perché sono ancora temi, se vuoi, risolti, se vuoi vivi, se vuoi ancora vivi dentro la nostra produzione artistica, la nostra produzione letteraria. Ora, senza ulteriori indugi, io inizierei a parlare del libro, anzi a parlare dei temi che affronti nel libro, e quindi la prima domanda, semplice ma non troppo, è questa: se tu volessi sintetizzare, Salvatore, quello che scrivi, o comunque quello che è stato la modernità, l'estetica moderna, in 2 o 3 parole, 2 o 3, quale parola utilizzeresti? Buonasera a tutti. Dunque, è difficile rispondere a questa domanda, nella misura in cui la modernità è un ambito che, come giustamente dicevi, tratto da molto tempo, argomento di cui mi occupo fin dagli anni dell'università per tutta una serie di ragioni, e come scrivo anche nel mio primo capitolo, nell'introduzione, non lo ricordo, è molto affascinante, mi interessa molto, credo che sia interessante per il lettore comune, diciamo così. Soltanto che c'è un problema: la modernità è come un profumo che sta nell'aria e poi si perde, no? E quindi è molto difficile circoscrivere, definire che cos'è la modernità. C'è un problema innanzitutto proprio di ordine cronologico: cosa intendiamo per modernità? Esistono molti indirizzi di studio, e ciascuno di questi indirizzi, la critica d'arte, la critica sociologica, la critica letteraria, ne danno definizioni diverse. Io ho deciso che per me la modernità era, ovviamente accodandomi a teorie critiche accreditate, che la modernità può essere intesa come un lungo periodo che va dalla data simbolo del 1789, la data della rivoluzione francese, al 1930. Dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, immagino si possa parlare di contemporaneità propriamente detta. Ora, questo lungo periodo, peraltro travagliatissimo di tempo, che va dal 1789 al 1930 circa, è un periodo all'interno del quale, per rispondere alla tua domanda, non mi chiedevi alcune parole che possono circoscrivere l'ambito di ricerca, è un periodo che è caratterizzato da fratture epocali, da cambiamenti radicali del modo di pensare, del modo di essere, e dunque poi del modo di esprimersi nei linguaggi artistici dell'arte figurativa o dell'arte letteraria, questi sono i due ambiti dei quali mi occupo all'interno del romanzo. E le fatture sono evidentemente due. Una è quella rappresentata dalla rivoluzione francese, che io leggo anche per deformazione professionale, cioè nei miei studi, soprattutto come rivoluzione borghese, con tutte le conseguenze che questo ha avuto nell'ambito delle arti. E poi c'è una seconda frattura, che è quella rappresentata dalle avanguardie, e questo è il motivo per cui il libro, il medesimo libro, ha due copertine. Il saggio è lo stesso, la raccolta, la sintesi di saggio è la medesima, ma ho scelto proprio queste due copertine della Croix, la libertà che vive il popolo, e le forme uniche della continuità dello spazio di Boccioni, proprio per rendere conto di queste due, di questi due momenti di frattura. E che cosa caratterizza allora queste fratture, pur con le loro diversità? Quali sono le parole chiave eventuali, no, da poter utilizzare? Ma senza dubbio la parola rivoluzione, appunto, rifacendomi all'etimo della parola, è un cambiamento totale di ciò che esisteva prima. Il primo cambiamento radicale è quello della rivoluzione, che porta la realtà nell'arte, ciò che non si era mai visto prima, infatti c'è un saggio dedicato appunto al realismo. La seconda frattura, quella delle avanguardie, porta invece la novità di un linguaggio assolutamente nuovo, inaudito, profondamente, volutamente scandaloso. E infatti un'altra parola chiave senza dubbio è appunto nuovismo. Ci fai un esempio di questo realismo così nuovo, così innovativo? Assolutamente sì. Io nel mio libro ipotizzo che si possa individuare un fil rouge nell'arte dell'Ottocento, che parte dalla pittura diciamo romantica, quindi un quadro come questo della Croix, libertà che vive il popolo, passa attraverso il realismo propriamente detto di Courbet, il maestro proprio del realismo europeo, e arriva al suo punto di massima espressione realistica con quello che qualcuno ha definito giustamente un realismo all'ennesima potenza, che è l'arte impressionista. Ad esempio qui ho scelto un quadro che amo particolarmente, che è il ballo di Eugène Galette. Sono tre dipinti evidentemente molto diversi tra di loro, ma che cosa li che cosa possiamo vedere? Si vede l'ingresso, come dicevo prima, della realtà attraverso tre passaggi successivi. Il primo quadro che ho fatto vedere, appunto, La libertà che guida il popolo, un quadro che quando venne presentato al pubblico suscitò uno scandalo enorme. Un critico, lo cito nel libro, dichiarò: la Francia è in pericolo, perché era un quadro, come disse un altro commentatore del tempo, è un quadro che porta la canaglia in primo piano. Era appunto questo il problema, questa è la grande rivoluzione. Si rappresenta un quadro che è connesso infatti ai moti rivoluzionari di Parigi degli anni 30, ma un quadro che in qualche modo è ancora il quadro della rivoluzione francese. E il pittore inserisce al centro del quadro una figura scandalosissima, mezza nuda, è la libertà. Ancora una volta, perché è scandalosissima? Non certo per il nudo, nella storia dell'arte dei nudi sembrava vestita in fissi, ma in quello che sconvolse gli osservatori del tempo era il fatto che questa donna indossasse il berretto frigio, quindi fosse chiaramente connotata in termini politici, il belletto, il trucco, le labbra rosse e poi il dettaglio sgradevole e antiestetico della peluria sotto il braccio, che è però realistico, ed è questa la grande straordinaria innovazione. Poi un'altra cosa, un altro aspetto che a me è sempre affascinato in questo quadro, un dipinto gigantesco per chi l'ha visto al Louvre a Parigi, che rappresenta gente comune, la canaglia appunto, che non è collocato in un mondo parallelo, il mondo dell'arte, ma è qui, Icet Nunc, in alto a destra si intravedono le torri di Notre Dame, è collocato nella città, in un posto reale. E poi straordinario, in mezzo alla massa dei rivoltosi, l'artista armato della Croix, che si rappresenta con tutti gli attributi della sua classe sociale, l'alta borghesia, quindi la tuba, e avanza in mezzo ai rivoltosi con la baionetta in mano, e il significato è doppio: da una parte c'è evidentemente evidentemente l'appoggio alla rivoluzione, ma dall'altra c'è l'idea di dire che io sono la rivoluzione, la mia arte è la rivoluzione della realtà. E un altro quadro, come dicevo, è quello propriamente realista, che è il caso di Courbet, con questo funerale a Ornans, dove abbiamo ancora una volta l'ingresso della prosa del quotidiano. Non è il funerale del sindaco, non è il funerale del principe XY, non è un quadro altisonante, eppure un quadro gigantesco, quasi a dimensione naturale. La volontà dirompente è quella di dare voce, come dice Manzoni nell'introduzione di Promessi Sposi, alle genti meccaniche, alla gente comune. E allora all'interno del quadro diventa fondamentale osservare le donne che chiacchierano, come accade in un funerale, guardare i dignitari del paese, un po' con questi volti rossi, un po' volgarotti, forse abbinanzati, e notare il dettaglio apparentemente ozioso, in realtà fondamentale, del cane in primo piano. Un dettaglio assolutamente inutile e in realtà necessario, perché è la banalità del quotidiano. E poi il terzo passaggio, come dicevo, potrebbe essere rappresentato dall'impressionismo, da un quadro come questo, che rappresenta, io nel libro parlo proprio di un percorso sociologico, l'affermazione progressiva della borghesia, che con l'impressionismo arriva ad autocelebrarsi, a fare trionfo di sé attraverso questi quadri. Un quadro come questo, dove vediamo tutti questi personaggi che si divertono una domenica pomeriggio appunto al Moulin de la Galette, posto realmente esistente a Parigi. Un altro quadro che mi piace sempre citare quando faccio questo discorso è il famoso balcone di Manet, dove, e qui si vede lo scatto rispetto all'arte del passato, abbiamo questi tre personaggi, una famiglia altoborghese che osservano una parata militare, ma lo spettacolo, secondo me, non è la parata militare, sono loro. E quindi noi assumiamo il punto di vista di alcuni dei cavalieri, perché sono per strada, che si gira, e con un taglio fotografico dipinto leggermente scentrato, vedono lo spettacolo della nuova classe sociale che si è affermata in Francia. Quindi frattura sociale, frattura politica e scrittura linguaggio. Tra l'altro, per ben due volte dicevamo la realtà, e qui cominciamo a mettere un paletto molto grosso, molto importante per quanto riguarda lo studio e il comprendere la modernità. Però se devo poi pensare a quanto rimane ai contemporanei, posso anche dirvi: abbiamo anche noi avuto le nostre fratture sociali. La seconda guerra mondiale, esattamente come la rivoluzione francese, ha significato un cambio di passo tecnologico enorme, un cambio delle vite quotidiane dei singoli, di accesso alla ricchezza, di visione estetica enorme. Ha prodotto quella società, quella frattura politica, sociale della seconda guerra mondiale, ha prodotto allo stesso modo un nuovo linguaggio? Possiamo paragonarlo? Ci sto pensando. sì e no. Visto che l'ambito di indagine che utilizzo all'interno del libro è sempre doppio, la letteratura e l'arte, allora mi viene facile rispondere dal punto di vista letterario, circoscrivendolo soprattutto alla realtà italiana in questo ambito. La seconda guerra mondiale ha prodotto in Italia una letteratura così innovativa come la grandissima rivoluzione che prima non ho citato, quella del realismo, che si traduce in letteratura con, come dice Hegel, la moderna epopea borghese, cioè il romanzo, l'affermazione del genere romanzo in contrapposizione alla lirica. È riuscita la seconda guerra mondiale, quel tempo, a produrre un'emergenza, diciamo, un monumentum letterario altrettanto dirompente? Secondo me no. C'è stato il neorealismo, che è stato un movimento decisamente importante, però prevalentemente cinematografico. E certo nel cinema sì, è stata una grande produzione quella neorealista, ma tutto sommato, come dice la parola, era neorealismo. Cioè era filiazione di qualcosa che era già iniziato prima, che era iniziato appunto qui nella modernità. Letterariamente parlando, il neorealismo è un movimento tra l'altro molto difficile da definire. C'è realismo magico, c'è Moravia per esempio, c'è Buzzati, ma fino a che punto dirompenti quando la proposta dei romanzi di Dostoevskij e del nostro Manzoni? Secondo me è infinitamente meno. E per quanto riguarda l'arte, è vero che nel secondo dopoguerra, per esempio negli anni 60, abbiamo i movimenti delle neoavanguardie. E però di nuovo si chiamano neoavanguardie. Cioè sono tutti in qualche modo figli delle grandi avanguardie del primo Novecento, dunque della modernità. La gran parte peraltro proprio vicini a una delle più rappresentative, una di quelle che poi è stata più fertile per le proposte estetiche contemporanee, oserei dire ancora odierne, che è dadaismo, magari non possiamo parlare. Però francamente non credo che siano proposte non così devastantemente innovative quanto quelle della modernità. Quindi anche artisti come Marina Abramovic, che cito perché sono più conosci personalmente, ha fatto anche articoli, ha pubblicato cose su di lei, con questa idea, secondo me, di arte impensabile solo pochi anni prima, dell'installazione della performance, oppure anche Cattelan, con il suo molto citato, la sua America. Ecco, tu pensi che questi artisti comunque, per quanto possono essere, abbiano qualcosa da dire, non si distinguino per originalità? Questa è una domanda tra bocchetto. Tu lo sai, a me piace moltissimo l'arte contemporanea. È proprio uno degli ambiti che più mi interessano e non c'è posto dove vada, dove vado a vedere il museo di arte contemporanea locale. Dunque l'amo molto, però francamente Marina Abramovic è un'artista che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, l'ho intervistata, trovo che il suo lavoro, soprattutto il suo lavoro del passato, sia particolarmente interessante e rappresentativo. Però oddio, poi è anche vero che non metterei insieme un personaggio come Abramovic e un personaggio come Cattelan. Proviamo a fare ordine. Allora, Marina Abramovic è stata un'artista innovativa, sì, lo è stata, non c'è dubbio. La performance art, quella che lei propone, no? Quindi il corpo dell'artista è la tela, è lo strumento del fare arte, lei è lì, si infligge ferite, si sottopone a grandi prove di sopportazione. Si era mai visto prima? No, non si era mai visto prima, però c'è un però. Quando l'ho intervistata, lei mi ha detto che, io le ho chiesto, ma come fai ad avere il coraggio di tagliarti, di starci con un cubo di ghiaccio per ore, no? E lei mi ha risposto che è il pubblico, osservandola, rimanendo col fiato sospeso, che le dà forza. Lei mi ha detto: io sento le vibrazioni del pubblico e quella vibrazione è talmente forte che aumenta la mia motivazione. Dunque, se ho capito bene, quello che voleva dire è: il pubblico nella performance art deve essere tirato per il bavero, deve essere coinvolto di pancia, deve essere dentro l'opera. Il pubblico, questa è una frase sua, è parte integrante dell'opera. Beh, allora da questo punto di vista, prima ancora di Marina Abramovic, il primo movimento della storia dell'arte che ha lavorato in questo modo, coinvolgere l'osservatore, fare appello ai sensi dell'osservatore, sconvolgerlo, lasciarlo senza fiato, è il barocco. E torniamo, bomba, visto che ho conosciuto le signore del FAI appunto in quell'occasione a Piacenza. E non a caso tanti critici, tra cui Umberto Eco, dicono l'arte contemporanea è arte neo-barocca. Poi, per carità, sono questioni molto complesse, quindi allora uno potrebbe dire dell'informale. L'informale non è forse innovativo? Certo lo è, ma non tutto allora. Per esempio, nell'ambito dell'informale possiamo anche inserire una opera assurda come la famosa merda d'artista di Manzoni. Ma anche quella, sì, è un'opera dirompente, non c'è dubbio, ma deve tutto allora alla madre di tutte le opere contemporanee, che è il famoso scala di Duchamp. Se non ci fosse stato Duchamp, probabilmente non sarebbe arrivato nient'altro. Neppure, esatto, guarda caso ci ricorda. Neppure l'America di Cattera. Perché allora, voglio dire, da questo punto di vista, quando Duchamp nel 1917 propone al mondo questa opera, fa veramente qualcosa di inaudito. Veramente scardina tutte le norme pensabili fino a quel tempo. E apre con l'invenzione del ready made, dell'oggetto bello e pronto, che solo perché è posizionato nel museo ed è firmato, peraltro con uno pseudonimo, Remut, solo per quello diventa opera d'arte, cambia per sempre il destino dell'arte. Qualcuno lo maledice ancora oggi, diciamo che fa. Però questa era veramente dirompente, veramente straordinariamente originale. A mio avviso, con tutto che amo d'arte contemporanea, America di Cattelan è kitsch e basta. Senti, vorrei tornare un attimo su quello che ci hai detto all'inizio. A queste due fatture importanti, no? Che noi verifichiamo, competiamo, studiamo nella modernità. E la rivoluzione francese da un lato, poi il Novecento, l'uomo ottocentesco, l'uomo positivo, l'uomo corale, l'uomo che scrive per il popolo, ha un'arte, una produzione artistica, una produzione letteraria del primo Novecento invece molto più intimista, molto più ripiegata su di sé. E nel libro spieghi benissimo questo passaggio, tutto il contesto, come è cambiato. Però io ti chiedo, dal punto di vista dell'estetica, sia letteraria che, diciamo, della produzione artistica, come si sostanzia questo passaggio? Penso, certo, io credo che per rispondere a questa domanda bisogna partire da una premessa. E mi perdonerete, la deformazione professionale del professore d'italiano e di arte, bisogna partire da qui. Cioè, bisogna partire dai mostri, da questi grandi intellettuali che cambiano per sempre, ancora una volta, la strumentazione mentale dell'uomo del primo Novecento. Cavallo tra fine 8 e inizio 9 abbiamo una serie di pensatori che scardinano tutto il sistema delle certezze invalse. Nietzsche proclama a gran voce la morte di Dio. Un'affermazione di questo tipo forse creerebbe scandalo ancora oggi. Immaginate nell'Ottocento, tra l'altro l'Ottocento europeo con l'Ottocento molto cristiano, che cosa può aver significato dichiarare al mondo: se credi in Dio, se ti poni in una prospettiva escatologica, sei un uomo debole. Il vero uomo, il super uomo, è quello che ha il coraggio di affrontare a testa alta l'assurdo dell'esistenza, il nonsense. Quindi non c'è alcuna provvidenza, per dirla con Manzoni. La storia non va verso il meglio, non esistono le magnifiche sorti progressive di Leopardi, esiste il nulla, esiste il dubbio, e non c'è alcuna prospettiva oltre il nonsense drammatico della vita reale. Marx, che in anni in cui il capitalismo era al top, era al massimo del proprio sviluppo, dichiara invece la crisi del capitalismo, dichiara che il capitalismo è un sistema economico destinato a collassare su se stesso, e pone in luce, attraverso poi la fine, come si dice, il collegamento al Partito Comunista, tutte le magagne, diciamo così, del comunismo e del capitalismo, dunque la vita drammatica delle fabbriche, no? Degli operai. Qui, tra l'altro, apro chiuso parentesi, da questo punto di vista è stato fondamentale anche il ruolo del romanzo inglese, che ha raccontato quel tipo di realtà. Freud che, se Nietzsche tutto sommato invita gli uomini a vivere nell'ic et nunc, condannandoli a un mondo senza divinità, e dunque toglie loro la certezza di una giustizia oltre la morte, di un momento che risarcirà tutti e che riporterà l'ordine, il giusto, Freud va a smantellare le certezze proprio del Dichtenung. Freud per Sony, mettere insieme da questo punto di vista. Freud perché dichiara che in realtà noi non possiamo fare affidamento non solo su Dio, ma neppure su noi stessi, perché in tutti noi esiste un recesso oscuro, la sua teoria dell'inconscio, del superio, dimostra che c'è una parte irrazionale, incontrollabile in ogni uomo. E Bergson, che arriva a dire che il tempo, c'è una mostra stupenda, abbiamo avuto il piacere di vedere, purtroppo non tutta perché eravamo ormai al tempo di iniziare, qui al 113, il tempo, dichiara, il tempo non è il tempo dell'orologio, perlomeno non è solo quello, è anche il tempo interiore, la durata, come la definisce Bergson, cioè il tempo dell'anima, il tempo dilatato, e vengono in mente ovviamente gli orologi mobili da lì, il tempo dilatato dell'anima. Einstein, la sua teoria della relatività, a questo punto. Allora, tutto questo determina una sensazione di sbigottimento di fronte al reale, e l'arte reagisce ripiegandosi su se stessa. Mi spiego meglio: a fronte di una realtà che è diventata incomprensibile da tutti i punti di vista, il realismo che abbiamo visto poc'anzi diventava, come dire, una illusione. Come è possibile conoscere il reale visto che non conosciamo neppure noi stessi? Poi non dobbiamo dimenticare che in questi anni si è fermata la fotografia, e gli artisti allora si trovano di fronte a un bivio: o il silenzio, oppure, questa è la strada che prendono, visto che c'è la fotografia che rappresenta la presunta, ammesso che esista, oggettività, a noi artisti compete far vedere non quello che si vede, ma ciò che non si vede. E allora l'arte prende le vie dell'intimismo, come dicevi tu. E allora abbiamo il modernismo inglese, di nuovo l'ambiguità dei termini, per gli inglesi modernismo è proprio un momento letterario preciso, Virginia Woolf, Joyce. Oppure abbiamo gli artisti dell'avanguardia, e qua abbiamo l'imbarazzo della scelta. Io ho portato alcuni dei quadri che cito poi all'interno del libro, che commento. La toilette di Kirchner: da che mondo è mondo la toilette era la topica della rappresentazione della bellezza femminile, e Kirchner rappresenta una donna volutamente brutta. L'immagine è profondamente dissonante, cromaticamente dissonante, c'è un cozzo forte di colore caldo e colore freddo. Il dipinto è angosciante perché, se immaginiamo questa donna in piedi, è troppo grande, è sproporzionata all'interno del quadro. E poi, come dicevo prima, questi artisti fanno vedere ciò che non si vede. Se osserviamo bene il quadro, la donna che si riflette nello specchio non è lei, è un'altra. Meglio, è lei, ma lo specchio, e qui genialmente viene recuperato un topos barocco, perché da lì viene lo specchio, lei si guarda e vede quello che solo il pittore può vedere, cioè probabilmente si vede brutta, c'è questa mano sulla guancia, forse tira delle rughe, forse si vede vecchia, chi lo sa, cioè nello specchio si vede la sua anima interiore. E poi cubismo, futurismo, cioè tutte queste avanguardie, ognuna di loro con un linguaggio profondamente nuovo, e fino ad arrivare a questo, a Malevich con questo quadrato nero su fondo bianco, che per qualcuno è la morte dell'arte, per qualcun altro invece è la nuova tela sulla quale scrivere il futuro, un'essenza. Mi sa che il tempo qua sta un po' sfuggendo di mano, quindi mi rubo lo spazio per un'ultima domanda. C'è un capitolo in questo libro, La femme fatale, che parla di questo, della figura femminile nella modernità, una figura femminile che scende dai piedistalli del Canova, no? Entra, l'abbiamo vista nei quadri che ci hai fatto vedere all'inizio, entra così com'è nei quadri impressionisti, quindi viene rappresentata in maniera, viene rappresentata spesso, però in qualche modo, soprattutto se penso alla seconda parte del viene rappresentata anche in modo controverso, un rapporto del pittore uomo o dello scrittore uomo, che dipinge, disegna la figura una donna controversa, conflittuale, di una maniera tale che forse noi ancora non abbiamo risolto. Spiegaci un pochino più questo rapporto, spiegaci un pochino di più qual è l'immagine femminile e soprattutto chi è la femme fatale del tuo libro. Quello è un capitolo al quale io sono molto affezionato. Credo che sia più bello, lo dico anche. E perché si parla di un poeta che per me è fondamentale, che io amo profondamente, che è Baudelaire, infatti me lo sono portato dietro come sempre. Il saggio è diviso in due parti, c'è una parte che si crea ipotizza un percorso all'interno di questa donna demone, sensualissima, ma demoniaca, giusto appunto. Sì, ho alcune immagini che possiamo condividere con la nostra platea. Beh, per esempio io parto con questa immagine di Felicien Robs, l'iniziazione sentimentale. Passo poi con un quadro molto più noto, che è La Giuditta prima di Klimt, e concludo con un quadro ancora oggi in macchina, ne parlavamo con te, con Giuliana, che è questa incisione, ecco, Fonstuck, sensualità. La sensibilità contemporanea, devo dire, sbagliando, me ne rendo conto, lo dichiaro subito, trovo questa immagine, l'ho scritto anche negli appunti del libro, lesiva della dignità femminile, dell'immagine della donna. Io vorrei parlare invece della Giuditta di Klimt, che è un altro quadro che contiene elementi importantissimi e forse non del tutto comprensibili a un primo sguardo. Sì. Dunque, allora, la questione di fondo è che, prima di parlare del quadro, faccio un piccolo cappello introduttivo, perdonateci se non mi rivolgo, cerco di non rubare troppo tempo, ma allora, nella data simbolo del 1900 esce l'interpretazione dei sogni di Freud. Esce questo libro. Poi ci saranno tutta un'altra serie di saggi di questo medico filosofo, i suoi studi sull'isteria, dedicati alle donne, e Freud, ancora una volta, rovescia le carte sul tavolo e proclama una cosa che per una verità che per noi oggi è pacifica, ma che all'inizio del Novecento sconvolge gli uomini. Che poi oggi per noi è pacifica, qualcuno dice che gli uomini non ci siamo ripresi ancora oggi da questa questione. Cioè dichiara che le donne sono esse stesse protagoniste del desiderio sessuale, non sono oggetto del desiderio. Se voi ci pensate ancora negli anni 60, no? C'era il detto l'uomo è cacciatore. Quindi questa idea che è l'uomo che guida la dinamica della sensualità e dell'erotismo. Ecco, la riflessione freudiana rileva invece un protagonismo erotico della donna. Se poi ci aggiungiamo che in questo turno di anni, fine 8, primi anni del Novecento, le donne progressivamente acquisiscono sempre più autonomia, indipendenza, le donne vanno al voto nel movimento suffragette, no? Per esempio. Poi è vero, un pochino più avanti, però poi tutta l'attività per la grande guerra, per la corsa dei esatto. Poi danno alle donne dei ruoli veramente maschili, certo. La guida dei tram, nelle fabbriche, fronte interno, no? Durante la prima guerra mondiale non c'è mai stato nessun momento di così grande sviluppo e di salto quantico in emancipazione come il periodo per guerra. Assolutamente. Ora, tutto questo fa veramente tremare la terra sotto i piedi all'uomo del primo del Novecento, che era abituato invece ad essere l'unico padrone della situazione, quindi passando l'espressione brutale, ma così si intendeva padrone della donna. E la figura della donna, dunque, non può essere più Lucia di Manzoni, l'angelo del focolare. Ci proverà il fascismo negli anni 30 a riportare in auge quel tipo di femminilità, la madre che fa tanti figli che saranno altrettanti combattenti per la patria. Ma in realtà da Freud in poi, dal primo Novecento in poi, il percorso è in discesa per una donna appunto sempre più emancipata, e l'arte reagisce esorcizzando la paura del maschio. L'uomo di questo periodo ha paura delle donne, e allora nasce il topos della femme fatale, dove è mantenuta l'idea della donna come creatura oggetto per antonomasia dell'arte, incarnazione stessa del bello, ma è un bello che distrugge, è un piacere che uccide, quello della femmina primo novecentesca. Baudelaire ci scrive insomma tutta un'opera, I fiori del male, alla fine racconta questo, racconta Auerbach, un critico importantissimo, nella sua lettura dei fiori del male, dice che essi corrispondono a una sorta di viaggio verso gli inferi, così come la commedia di Dante invece pare viaggio verso il paradiso. Non a caso Dante è citato continuamente all'interno dei fiori del male, ma per essere rovesciato, c'è una poesia proprio che si chiama La Beatrice, se mi dici così, io lo so, cioè non posso non leggere un testo stupendo, è una poesia che io commento all'interno del libro, istituendo tutto un filo rosso tra alcuni componimenti dei fiori del male. Poi non ho ancora risposto alla tua domanda, lo farò tra un secondo. La poesia si chiama Le Serpents qui dansent, il serpente che danza. Il poeta osserva la sua amata che si alza dal letto dopo l'amore, nuda, e cammina per la stanza. Lui la guarda e la descrive con delle parole estremamente sensuali, e leggo un piccolo passettino, mi perdonerete ma lo devo leggere in francese perché la traduzione italiana non rende, e per sentire il suono veramente, la sensualità, e attraverso, vabbè, quello leggo, lui la guarda e dice: À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Cioè, attraverso tutte le liquide, le nasali, il poeta dà proprio l'effetto della sinuosità del serpente, di questo animale così affascinante ma che fa così paura. Velenoso, esatto. In italiano dice: nel vederti cadenzata andare, splendida dall'abbandono, tu mi sembri un serpente che danza ad un bastone in cima. La tua testa di fanciulla sotto il fardello della tua indolenza tondola con l'identica mollezza di un giovane elefante, e il tuo corpo, slanciato bastimento che bordeggia e che tuffa nell'acqua le sue antenne, pencola e s'assottiglia. Donna bellissima ma velenosa, esattamente come Giuditta prima. Clint con questo quadro compie un'operazione geniale, ancora una volta recupera un topos arcinoto. Nel mondo della storia dell'arte occidentale si era vista mille volte la topica di Giuditta e Orfeo, ma nella rappresentazione tradizionale Giuditta è una giovane vergine che uccide Orfeo, probabilmente il quadro stupendo di Caravaggio, donna bellissima, raffinata, giovane, innocente, pur avendo compiuto un'opera delittuosa, ma Orfeo è il male, è il mostro. Clint recupera il topos per fare qualcosa di completamente diverso. Innanzitutto espunge dal quadro Holofernes, in realtà lo inserisce nell'angolo in basso a sinistra, e tutta la rappresentazione è dedicata a Giuditta. Giuditta è inserita su uno sfondo bizantineggiante di oro massiccio, e indossa un velo tramonto d'oro sensualissimo, guardate il dettaglio del seno che si intravede sotto il velo nero, e su quel viso di Giuditta 1 sono stati scritti fiori in inchiostro, Che cosa rappresenta questo sguardo enigmatico? La maggior parte dei critici convengono nel leggerlo come un'espressione estatica di piacere, qualcuno addirittura ha detto quasi erotico. Giuditta gode dell'aver ucciso non Oloferne, ma il maschio. E il maschio relegato nell'angolo è esatto tra le mani di Giuditta, che stringe la testa con le dita come degli artigli rapaci. E però io nel mio libro poi mi soffermo a lungo e creo un parallelo con gli altri tre dipinti che ho scelto. Quel viso non è casuale, quello è un viso cristologico. L'uomo è la vittima sacrificale, l'uomo è Cristo di fronte ad una donna demone che ti attrae, che ti delizia, ma che poi ti distrugge. Salvatore, grazie per la chiacchierata. Abbiamo concluso, ma non credo il tempo per qualche domanda, se qualcuno vuole. Nel frattempo, mentre vi organizzate, prendete coraggio, ti chiedo solo una cosa, è venuto fuori un attimo il tema, ma avremo parole di sera della modernità 2, visto che c'è tanto da dire. Ma allora, in realtà le idee non le ho molto chiare. Io scrivo d'estate quando sono in vacanza, quindi ho tempo di studiare la mia vacanza. E avrei voglia di scrivere una parola di visioni della contemporaneità. Mi piacerebbe, se tenendo la stessa traccia di indagine, quindi un'indagine di fronte letteraria e artistica, vorrei fare un percorso di indagine dedicato al secondo Novecento e quindi avvicinarci veramente più a noi, e chissà, probabilmente lo farò. Il progetto sarebbe questo. Tra l'altro, intanto che ho il microfono, ne approfitto per ringraziare anch'io, mi associo ai ringraziamenti che ha fatto prima Sabrina. È stato un enorme piacere incontrare nuovamente le faine, come si dice, il signor Del Fai, il presidente Simona Kettmeier, che è stata gentilissima, e questo evento è nato grazie a lei, inizialmente perché è stata lei che mi ha offerto l'idea di... Dopodiché ho avuto due collaboratori d'oro, la direttrice della biblioteca Valeria Trevisan e Fabio, che mi ha supportato e sopportato fino a stamattina, perché l'organizzazione dell'evento è stata molto lunga, lo scambio di mail va avanti da un anno fa praticamente, e per colpa mia, perché dovevo preparare il concorso, non sapevo quando avrei avuto le prove, insomma, quindi la squadra ha funzionato bene. Spero che questo incontro vi sia piaciuto, io sono contentissimo, ci tenevo molto a essere qua. Tu sei contenta? Molto contenta. Quindi noi siamo deliziati, grazie di cuore a tutti, se volete qualche domanda io sono qui. Io ho aggiunto una cosa. Grazie mille. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Non abbiate paura. Se lo fate io posso fare. Mi è piaciuto moltissimo quando hai detto con la nascita della fotografia gli artisti non potevano più replicare. È un flusso di coscienza, mi sembra il modernismo ci sta. Allora, praticamente c'è una paura a riprodurre il reale, e secondo me c'è stata proprio una vera fuga, ma anche per paura. E l'arte, quella assolutamente informale, è frutto anche di paura. Assolutamente, assolutamente sì. Ma è molto bello quando, mi ricordo, c'è stato un tempo in cui vi modo di leggere questo saggio di cui purtroppo non ricordo il titolo, ma era un saggio di Aaron Schaff dedicato alla storia della fotografia, è uno dei testi base, insomma, quando ci si occupa di fotografia. E all'interno di quel libro si raccontava che quando i primi fotografi ad Arvo, dei nomi più importanti ovviamente, si affermarono a Parigi, nacque una querela molto accesa con i pittori, perché i pittori li accusavano di aver rubato il lavoro. Abbiamo testimonianza di una causa intentata da una compagnia di pittori, tra cui vari nomi, uno dei più altisonanti, Manet, contro i fotografi parigini, appunto perché l'accusa era quella di rubare il lavoro ai pittori e di produrre qualcosa che non era arte. Eppure quando andiamo a vedere i quadri, soprattutto impressionisti, perché sono loro che poi vivono lo stesso periodo, compare il taglio fotografico, compare questo effetto smosso, sfumato, e allo Schaff si chiede: ma non è che l'hanno fatto copiando il fuoco lento delle foto, della fotografia? C'era un dettaglio che mi raccontavo, mi pare di Manet, l'ha trovato dopo morto. Esatto, cioè lui tenta la causa, eccetera. Poi, una volta morto, trovano in casa di Manet, nascosti sotto chiave, degli album di fotografia. Quindi evidentemente sappiamo che Courbet, l'artista realista, l'ho citato prima, per il suo funerale a Ornano, usava la fotografia, ritraeva le modelle, soprattutto per i nudi ritraeva le modelle e poi dopo le dipingeva usando la foto. Il riferimento che fai tu, non so se ti do del tuo perdonami, è assolutamente calzante, e quello magari appunto sarà uno degli argomenti di Parola Visione Modernità 2, perché artisti come Burri, artisti come Fontana rappresentano l'impresentabile. L'arte informale, vedova, no? L'arte informale è un grido lacerato nel buio ed è l'unico, come dire, loro penso che avessero questo in mente, era quel modo di esprimersi, l'unico possibile linguaggio, cioè di nulla, cioè dei gesti dirompenti sulla tela, tagliare la tela, scavalcare la tela, erano gli unici linguaggi possibili, cioè dei linguaggi, dopo l'orrore della seconda guerra mondiale il linguaggio diventa incomunicabile, è solo colore, è solo segno, è solo traccia di un passaggio dell'artista che rappresenta però dolore, direi. Quindi diventa, qualcuno potrebbe dire, in un altro modo è la stessa cosa, secondo me, non a caso gli anni più o meno sono gli stessi, che fa Pollock con il suo dripping. L'arte più, una delle arti più astratte possibili, però noi abbiamo le foto di Pollock che cammina sul quadro, beve whisky mentre dipinge, scena sul quadro. Io dico sempre, quando ne parlo, che quei dipinti sono il realismo all'ennesima potenza. È una tranche di vita, cioè proprio è un pezzo di vita, lui ci ha camminato sopra, c'è la sua cenere. Quindi, insomma, la questione del realismo, io anni fa feci un ciclo a Piacenza di letteratura in realtà sulla sfida del realismo. Esiste il realismo? È possibile rappresentare la realtà? Che cos'è la realtà? Insomma, è molto affascinante secondo me. Anche perché poi il romanzo questo fa, no? Dovrebbe rappresentare la realtà. E, però insomma sono più punti di domanda che punti di fede, direi. Nella relazione che tu hai fatto oggi, consideri arte periodo moderno, secondo la tua visione, sì, dal 90 rivoluzione francese all'inizio, alla guerra, alla prima guerra, sì, e consideri moderno. Che cosa consideri tu contemporaneo? Altra domanda. Bella domanda. No, certo. Allora, dunque, contemporaneo, dunque, se io all'inizio, cioè il primo stato dove parto proprio con queste questioni. Allora, in realtà, se qui fossimo all'università, ci verrebbe detto che la storia dell'arte moderna, la storia della letteratura moderna va da dopo il Medioevo fino alla Rivoluzione Francese. Dalla Rivoluzione Francese, 1800, in poi siamo nella contemporaneità. E per carità, questa è una scansione temporale alla quale, di fronte alla quale io chiudo la testa, che quindi condivido. Però diciamo che, siccome questo saggio non voleva essere un saggio accademico, voleva essere un saggio per il lettore più o meno comune. Io ho fatto molta fatica a scrivere questo libro, molta più di quanto non ne abbia fatta quando ho scritto Malarazza, che era la revisione della tesi di laurea. Perché la tesi di laurea era, per forza di cose, il linguaggio scientifico. Di conseguenza c'erano tutte le note a piedi di pagina, tutti i rimandi, mi attenevo a categorie molto ferree, davo delle mie letture personali inserendole in tutta una serie di citazioni eccetera di altri psichiatri, critici e scrittori. Qui invece mi sono preso la libertà di scrivere un libro che volevo che fosse agevole, quindi per questo motivo ho espunto tutte le note a piedi di pagina. E allora mi sono chiesto, beh, l'ambito di cui parlare lo sapevo, perché questo è quello che sento più mio, più vicino a me. Quindi che avrei parlato di questo periodo a cavallo tra 8 e 900 già ce l'avevo in testa. Ma poi mi sono chiesto, che cos'è per le persone questo? Quante volte ho sentito dire, ah, il museo di arte moderna, per alludere al museo di arte contemporanea. E allora, in realtà, io già quando ho scritto questo, pensavo che parlo di visione della modernità 2, ho pensato di andare incontro al mio lettore ideale e di usare la sua parola, la parola modernità, facendogli però capire che prima di arrivare a quella che chiamiamo arte moderna, cioè Cattelan, cioè Damien Hirst, eccetera, c'è una radice, e la radice è questa. E quindi ho, diciamo, scelto di non essere filologicamente correttissimo, ma di essere più vicino al lettore, anche con questo piccolo errore, chiarendo poi, però, io nel primo saggio chiarisco che in realtà è una scelta di campo, che in realtà la modernità in ambito accademico è un'altra cosa. Però mi interessava l'uomo della strada, diciamo così, mi interessava l'opinione corrente, le parole comuni. Le parole comuni spesso parlano di una modernità, ripeto, quando invece si dovrebbe parlare di contemporaneità, e allora usando quella parola volevo far capire che se oggi noi entriamo nei musei, visto che abbiamo visto giù, ve lo faccio vedere, e vediamo roba tipo questa, Damien Hirst, For the Love of God, tutto questo deriva da questo, deriva dalla modernità. Perché io sono fermamente convinto, ritorno di nuovo a Bomba, se non ci fosse stato Duchamp non avrebbe mai avuto il testo che sarebbe stato di Diamanti e Damien Hirst. E quindi, insomma, sì, la risposta credo che sia questa. Grazie. Bene, allora, prego. Funzione dell'arte in questo arco temporale. In parte hai dato una risposta quando hai detto che la Rivoluzione francese ha messo, cioè è praticamente venuta la ribalta. Il realismo, no, sì, il realismo è stato funzionale a sì. Ma la funzione dell'arte in questi due secoli, oltre due secoli, è cambiata? Cioè l'arte, funzione dell'arte è rimasta comunicazione, volontà di comunicare di altre cose? Allora, l'arte, io sono fermamente convinto che l'arte sia lo specchio del sentire di un'epoca, anche questo, quindi. Però c'è un però: l'arte della modernità, per come la intendo io, la prima parte, quindi il realismo, fu un'arte che nacque con l'idea di essere democratica, doveva essere comprensibile da tutti, doveva essere un'arte che raccontava la prosa del quotidiano, veramente il corrispettivo del romanzo in ambito estetico, e dunque era profondamente comunicativa. Questi artisti additavano Canova come il modello da non seguire, perché quella era un'arte altisonante, lontana, tanto quanto l'epica e la tragedia in ambito letterario, in contrapposizione al romanzo, la moderna epopea borghese, come dicevi. però i pensatori della crisi, questa arte moderna che era nata per essere democratica, comunicativa, ha tradito se stessa ed è diventata, un po' per scelta, un po' per forza, tutte le questioni di cui si parlava prima, la crisi, i pensatori, la fotografia, è diventata un'arte progressivamente sempre più concettuale, sempre più astraente dal reale. E di fronte a un'opera come questa, per esempio, no, I orologi moniti da lì, la persistenza della memoria, o di nuovo il quadrato di Malevich, veramente si rischia di rimanere in silenzio e di non capire veramente che cosa voglia dire, anzi accade proprio questo all'osservatore comune. E dunque in questo senso questi artisti hanno tradito le premesse da cui è nata la modernità. Loro, che sono il frutto più alto della modernità, sono diventati molto molto più aristocratici di Canova, perché a fronte delle Tre Grazie di Canova, anche se io non so nulla di arte, sono in grado di comprendere che è bello, è oggettivamente bello. Banalmente, banalmente poi per dire, non ho gusto estetico, non lo riconosco come bello, dico sì, ma queste cose vecchie, perché c'è anche chi purtroppo magari risponderebbe in questo modo, però io credo anche quella persona è in grado di riconoscere il lavoro, la manualità che ha portato a realizzare un'opera del genere, il valore artigianale dell'opera d'arte. Con le avanguardie, noi oggi questo lo vediamo all'ennesima potenza, l'arte si smaterializza sempre di più, diventa sempre più concettuale, sempre più l'idea giusta al momento giusto, e forse dovremmo dire col gallerista giusto, e quindi diventa veramente di difficilissima fruizione e rischia di tradire l'assunto che per me è il primo assunto dell'arte, che è quello di comunicare, perché nel momento in cui l'opera d'arte non mi dice niente, secondo me l'artista ha fallito. C'è una metafora molto carina che si deve a Sartre in un libro seminale degli anni 60 che si chiama Che cos'è la letteratura? E in quel libro Sartre a un certo punto dice: la letteratura è come il gioco della trottola. Il lettore prende la trottola, la fa girare e il godimento sta nell'atto di prenderla, farla girare e guardarla girare. Il lettore di fronte all'oggetto libro è nella stessa posizione. Se il lettore chiude il libro perché lo annoia, perché non lo capisce, l'autore in qualche modo ha fallito, perché se no rimangono solo dei segni neri sulla carta, dice Sartre. Se non c'è il pubblico, non c'è l'opera d'arte. Questi artisti vivono veramente in torri d'avorio inarrivabili, la cattedra massiccio come America di Cantelan, e spesso rischiano di compiacersi della loro, di questo iperestetismo un po' fine a se stesso, e che quindi rischia di essere non comunicativo. Esatto, stavo proprio dicendo quello. Bisogna fare la fatica per arrivare all'arte, perché se non faccio fatica non mi cambia nulla, io rimango sempre la stessa, e attraverso la fatica che posso capire e imparo qualcosa. Perché se io leggo un libro che non capisco, non credo che sia lo scrittore che sbaglia, ma sono io che purtroppo non mi mancano dei codici. Assolutamente. Lei Malevich come lo vede? Allora, dunque, l'osservazione è molto interessante. Come stavo dicendo prima, poi arrivo e rispondo. Come dicevo poc'anzi, questi artisti hanno tradito, diciamo così, l'assunto di partenza. Doveva essere la loro. Prego. Cioè, il traditore, ma lei è sempre per essere chiaro. Sì, profondamente. Partiamo da lui. Profondamente. Prendiamoci da lui. Ma lei ha tradito l'assunto di partenza, perché l'assunto di partenza era questo. anzi neanche questo, ancora di più questo. Era, io devo guardare il quadro, lo devo capire immediatamente. Questa è la democrazia dell'arte. L'avanguardia e Malevich insieme tradiscono questo assunto con un'arte che diventa sempre più astratta e concettuale, come dicevo poc'anzi. Perché? Perché in mezzo c'era stata la fotografia, e quindi questi dicevano, per rappresentare la realtà oggettiva c'è già la foto. E poi perché c'era stata appunto la crisi rappresentata da questi pensatori. Morale della favola, se io voglio leggere Malevich, come faccio? Devo aver studiato. Devo conoscere tutta la produzione di Malevich, devo conoscere le avanguardie, devo sapere tutto il contesto, allora posso sapere che questo quadro rappresenta la quintessenza dell'essere. Il bianco e il nero, con i chiami peraltro della filosofia orientale, rappresenta i pilastri dell'essere. Dunque quest'opera, tra virgolette, ancora una volta, è molto realistica perché rappresenta la realtà che sottende a qualsiasi cosa, è l'essenza primigenia, ancora più Kandinsky, che lavora con molti colori. D'altronde Kandinsky citava le composizioni musicali, ci ha detto tutta un'altra estetica. Qui è l'essenza pura, però appunto, per ritornare alla sua domanda, è indispensabile che io abbia una formazione. Allora, secondo me non è il traditore ma il salvatore, perché così, scusi, è l'arte, sempre a questo, perché se io capisco tutto, allora c'è una notazione, la stessa cosa, vedere certe cose, io devo non capire eventualmente e farò questo corso per capire. Ma io sono d'accordo con lei, infatti a me piace l'arte contemporanea proprio per quello, perché è una sfida che il pugno non suona. Cioè, se non mi cambia nulla, io resto sempre l'uomo della caverna. Insomma, è la fatica che io voglio fare. Sì, cosa, la fruizione consapevole dell'opera è faticosa, questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Può decidere se parla o non parla. Certo, quello che io volevo dire. Allora, io la parola l'ho usata, ti lascio parlare, io la parola l'ho usata in modo provocatorio, e sebbene pensi che sia vero che l'arte deve essere una fatica, ma te lo dice chiaramente la introduzione per me si sposa. Leggere è una fatica, scrivere è una fatica, ma lui dice chiaramente sì. Quando io vado a scrivere il libro, si troverà chi duri la fatica di leggere. Quindi leggere è una fatica, fruire l'opera è una fatica. Uso la parola traditore volontariamente e consapevolmente, però, perché colloco l'evoluzione di queste opere nella storia, nel tempo, nell'estetica e nella sociologia del tempo. E chi aveva concepito il realismo alla Courbet mai avrebbe fatto una cosa del genere. Un Courbet non avrebbe mai proposto un quadro del genere, perché uso traditore perché per lui sarebbe stato un tradimento. Probabilmente Courbet avrebbe storto il naso anche davanti al Moulin de la Galette, anche davanti all'impressionismo. Volevo solo aggiungere una cosa: gli anni di Courbet sono anche gli anni della nascita della sociologia, sono anni profondamente positivi, sono anni di analisi, sono anni di apertura, sono anni in cui l'attenzione umana è verso la comprensione di sé e della società in cui si è, in cui si vive, come si evolve, come si muove. Questa è la rappresentazione, comunque probabilmente frutto, è all'interno, non so come, di un altro contesto sociale, non c'è più quella spinta lì, non c'è più una spinta pedagogica, ma pedagogica su se stessi, e quindi diciamo nella diversità dei due contesti, sì, certo, tu hai usato la parola traditore perché ci veniva bene, no? Certo. Nell'evoluzione, nel racconto del realismo, ma è ovvio che di per sé e in sé Malevich racconta qualcosa, non sono sicura che abbia un intento pedagogico, però è questo quello che produciamo, è questa la cifra di quella società, perché non c'è più però quell'afflato che si vedeva comunque anche in tante scienze sociali dell'epoca. Sì, proprio del resto quello che giustamente dicevi è nel contesto proprio culturale dell'Ottocento. L'Ottocento è, come diciamo, prima citavo Hugo, no? C'è l'idea dell'artista che guida il popolo. Che guida, che se ne fa. I famosi episodi di Cinzia Manzoni. Cioè, anche 25 lettori, chissà se i miei 25 lettori avranno capito, cioè li accompagna. Prendo un attimo la copertina, la libertà che guida il popolo. Questo è un manifesto politico, questo è dire, e questo è, non so, è Grillo in una sua manifestazione, cioè è un invito, è dire attraverso l'arte al popolo cosa fare, come cambiare le loro vite, è andare alla guerra, cioè è proprio sì, era interesse qui, poi ci sarebbe da dire, chissà, viene in mente il famoso passaggio di I Tableaux Parisiens, dove Baudelaire ancora una volta racconta questa storiella che sicuramente conoscete, ma che forse ci può servire per chiudere questa serata. Baudelaire immagina di essere su un boulevard a Parigi e si lamenta perché dice che c'è molto traffico, le carrozze sprecciano avanti e indietro, ha piovuto da poco e quindi ci sono tutte le pozzanghere per strada. Lui deve attraversare la strada perché deve entrare dall'altra parte in una casa d'appuntamenti. Finalmente riesce ad attraversare la strada, entra dentro. Appena entra dentro viene accolto da un altro avventore questo bordello, il quale gli dice: ma come? Voi, il bevitore d'ambrosia, usa proprio questa espressione, voi che siete un intellettuale, insomma, come dire, scorso dell'Ottocento, tu che rappresenti la cultura, la vita del popolo, quello che comunica, quello che dà le istruzioni di vita, virgolette. E Baudelaire dice: sì, sono proprio io, me ne vanto. E non usa queste parole, nel senso è: quei tempi sono finiti. E dice: sa cosa è successo? Che mentre attraversavo la strada, siccome c'era tanta confusione, ho perso l'aureola del poeta. E lui dice: vada subito a prenderla. E lui risponde: no, non la vado a prendere, non la voglio più, ne prendo atto e magari la prenderà qualche altro poeticolo da strapazzo. E oggi col Senno di Poi, leggendo col Saturno, nel tempo continua all'interno della raccolta e della traduzione di quegli anni, insomma, il senso è che Baudelaire, come tutti i grandi intellettuali, prevede i tempi, preannuncia i tempi e capisce che è cambiato qualcosa, capisce che l'arte, la funzione dell'arte è cambiata, e con quel raccontino, con questa allegoria della perdita dell'aureola, anticipa i vari malefici della situazione, anticipa il modernismo in letteratura, anticipa una nuova funzione dell'arte che, come dicevo prima, forse questo si può dire, è sempre meno diretta e dunque comunicativa, e sempre più concettuale, dunque indiretta, dunque aristocraticamente estetizzante. Grazie di cuore a tutti.